Buonasera, trasmettiamo dall'aula P2 occupata nei cubi di ingegneria all'Università della Calabria. Salutiamo tutti gli ascoltatori di Fuori Onda Radio e di Radio Ciroma. Questa è Banda Armata, vai con la sigla. Razzinga! Razzinga! Dalla fortezza di San Pietro arriva, coi pugni teologici, Razzinga! Razzinga! Tuona, si scaglia dal sagrato contro il male, se sei nemico prega è già finita, la Chiesa mantenente dice Razzinga! Razzinga, croci rotanti, Razzinga, Pater Noster, Razzinga, ostia di fuoco, ha la mente di Lutero ma tutto il resto va da sé, non conosce la paura né tra italiane che cos'è, lotta cade, si rialza, sempre vincerà, Razzinga. Con uno sguardo spacca in due conclave, dagli occhi sputa fuori salmi gamma, non c'è chi è forte più di te, Razzinga. Razzinga ha la mente di Lutero ma tutto il resto fa da sé, non conosce la paura né sa italiane che cos'è, se hai bisogno puoi invocarlo. Buonasera di nuovo a tutti gli ascoltatori di Fuori Onda Radio, di Radio Ciroma, questa è Banda Armata, trasmettiamo dall'aula P2 occupata all'Università della Calabria. Dunque, innanzitutto abbiamo fatto un po' di ritardo, non per un problema tecnico questa volta, ma semplicemente perché abbiamo dovuto un attimino inserire un argomento nuovo nella scaletta. E devo dire che lo abbiamo inserito con molto piacere. E da dove partiamo? Partiamo dal coordinamento degli studenti di ingegneria. Chi ha seguito la puntata precedente sa che dalla regia Peppone in cabina di regia fa facce strane. Tutto a posto? Funziona tutto? Perfetto. E chi ha seguito l'assemblea scorsa sa che la trasmissione scorsa sa che dall'assemblea è uscito fuori il coordinamento degli studenti di ingegneria, ovvero un coordinamento per riuscire a portare la voce della nostra facoltà e poi preferibilmente anche delle altre facoltà. Ci auspichiamo che questo coordinamento si allarghi sempre di più nelle città, nelle piazze, tra le aule, tra i cubi, alle mense, Domani c'è la prima assemblea di coordinamento degli studenti di ingegneria, che avverrà alle 17.30 qui in aula più occupata, dove stiamo trasmettendo. Gli argomenti da discutere sono pochi, ma sono piuttosto corposi. Innanzitutto c'è da discutere e approvare il documento che sintetizzerà le posizioni dell'assemblea di facoltà. Ricordiamo, un'assemblea di facoltà che ha visto la partecipazione di circa 600 persone, considerando che siamo stati costretti a spostarci dall'aula P2 fino all'aula A, ed anche l'aula A era piena in ogni ordine di posti, comprese le scale. E dove siamo usciti con la volontà di scrivere, di pubblicare, di diffondere un documento di fortissima opposizione, di feroce opposizione ai tagli al DDL Gelmini. Fra l'altro avremo anche modo di discutere di una nuova manovra contro l'università pubblica inserita nella finanziaria di quest'anno. Questo comunque lo vedremo dopo. In ogni caso è opportuno fare un passaggio sul motivo per cui abbiamo ritardato la trasmissione oggi. Abbiamo dovuto, come ho detto, inserire un punto all'ordine del giorno, un punto all'ordine della trasmissione, che è il diniego rilasciato dal Ministero dell'Ambiente alla valutazione di impatto ambientale per la centrale a carbone di Rossano. In buona sostanza il Ministero ha attestato che le controdeduzioni presentate dalle istanze del territorio, ovvero dove si diceva che, oltre ad essere un progetto particolarmente dannoso per l'economia, per l'ambiente e per la salute dei cittadini, si trattava di nient'altro che della riproposizione del progetto di riconversione presentato da Enel, già respinto nel 2005, per cui il progetto è stato sostanzialmente respinto di nuovo, e adesso l'Enel dovrà eventualmente pensare di presentarne un altro. Questa in buona sostanza è una vittoria per una volta, è una vittoria delle istanze del territorio, che si sono mobilitate piuttosto compattamente, piuttosto organicamente in tutta la piana della Sibaritide, e che hanno trovato anche la solidarietà e la collaborazione di altri comitati da tutta Italia, nonché della rete di difesa territoriale, di cui poi fra l'altro in particolare discuteremo dopo, in quanto la rete di difesa territoriale si è riunita questo sabato a Crotone, fra l'altro facendo un sit-in davanti alla Pertusola. La famosa Pertusola, le cui scorie e feriti di zinco vagano oltre che nel Crotonese anche appunto nella piana della Sibaritide. Per cui questo è il segno di come a volte la controinformazione, la compattezza, le istanze nel territorio, proprio nei giorni in cui a Tessigno si fa la guerriglia, non sono i cittadini a fare la guerriglia, ma è lo Stato a fare la guerriglia contro i cittadini che difendono il proprio territorio, proprio nei giorni in cui la Calabria in silenzio accoglie, tra virgolette, le centinaia di tonnellate di rifiuti di Napoli, e le accoglie ufficialmente soltanto a Pianopoli, ma sappiamo quasi con certezza che i rifiuti di Napoli si stanno muovendo anche nel Crotonese, anche nel Cosentino, anche probabilmente qui nei pressi dell'Università della Calabria. E in questi giorni quindi topici, questo è un segno importante, un segno del fatto che le istanze del territorio, se compatte, se senza scendere a nessun compromesso con i profitti e con le speculazioni, possono anche vincere. Andiamo su con un primo stacco musicale. Questo è Vinicio Capossella, un pezzo tratto da Canzoni a Manovella, un album del 2000, Marajà. Marajà, Marajà, è arrivato il Marajà. È arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato su tre ruote con la gotta sulle gote, è arrivato in aerostato coi forzuti del Caucaso, sul Mercedes cabinato è arrivato il Marajà. Monopolo il ciclofono, va in rivista il Marajà. S'alza l'asta del ginnasta quando passa il Marajà. Si sollevano i manubri dei sollevatori bulgari. Si spara l'uomo cannone quando passa il faraone. Apre il mazzo anche il pavone se lo chiede il Marajà. Si scoppiscia, si sganascia, si oscureggia il Marajà. Raglia tutta la marmaglia quando raglia il Marajà. Sguaglia in forti commensali, versa gli otri di boccali. Va scialato, si stravagga, si stramazza il Marajà. Si sternuta il Marajà, si stupiscono e svaniscono se si acciglia il Marajà. I gianni svizzeri ottomani fanno guardie sui divani, col ventaglio e col serraglio danno lustro al Maharaja. La girtazza su una stola, di Ermellino si consola, gli occhi viola si ristora sui cuscini di tartà. Alle corse degli struzzi fa la mostra dei suoi vizi, sogna tutti i suoi topazzi a diventare Maharaja. Si rimpinza il Maharaja, tutti accoglie, tutti abbaglia, tutti ammaglia il Maharaja. Fa da padre, da padrino, alza tutti al suo destino. Non bisogna più pensare, pensa tutti il Maharaja. Ma t'attacca con riguardo tutto il bacio del suo sguardo. Se non credi più a nessuno, niente crede neanche a te. I miei sogni se li hai presi, l'uomo nero, e non li ha resi. L'uomo nero che ti tiene, ti trattiene un anno intero. M'ha coperto tutto d'oro e poi m'ha lasciato solo, solo, solo qui a pensare a diventare Maharaja. Riprendiamo la linea, qui è Flavio al microfono, c'è sempre Peppone in cabina di regia, dopo avremo Gustavo al microfono. Dunque, stavamo parlando, prima di parlare del carbone, o meglio del non carbone di Rossano, del coordinamento studentesco ingegneria, come detto domani, quindi per chi ci sta ascoltando a Radio di Roma sarà già stato il coordinamento. Domani discuteremo il documento e preferibilmente, auspicabilmente lo approveremo e cominceremo a diffondere un documento forte della nostra facoltà. Dopodiché si discuterà anche di portare queste istanze all'interno della città, all'interno dell'università. Probabilmente venerdì, sabato, massimo con l'inizio della prossima settimana, cominceremo a organizzare dei comizi, delle elezioni all'aperto per denunciare quanto sta avvenendo all'università pubblica, ma non solo. Come collettivo, ma in realtà come studenti della facoltà, ci siamo imbattuti in questi giorni nelle famigerate sessioni di esami del DM 509. Molti di voi avranno letto il nostro comunicato, ancora un CDF ridicolo, in quanto il consiglio di facoltà dello scorso giovedì è stato effettivamente un consiglio decisamente ridicolo. Dopo averci fatto raccogliere circa 500 firme, la nostra proposta di fatto non è stata neanche discussa, per quanto abbiamo potuto partecipare formalmente, seppure come tutti sanno noi partecipiamo informalmente praticamente ogni volta che vogliamo. Abbiamo partecipato formalmente, abbiamo cercato di riportare la discussione sul binario della nostra petizione. Tuttavia, tra proposte del preside, proposte dei docenti, proposte dei rappresentanti degli studenti, quello che è accaduto è semplicemente una grandissima confusione. Buona parte dei docenti non avevano neanche capito quali erano le nostre istanze, le nostre proposte, per cui alla fine si è arrivata a votare veramente con una manciata di appartenenti al consiglio di facoltà, si è arrivata a votare una mozione presentata a quattro mani, in parte dal preside, in parte dal professore Aristodemo, una mozione che è stata peraltro bocciata dopodiché non c'era il numero legale per votare nient'altro. Questa è stata una grandissima responsabilità del Consiglio di Facoltà, che si è liberato del problema di centinaia di studenti attraverso una pantomima, una ridicola pantomima, senza peraltro capire neanche quello che 500 studenti avevano cercato di portare in quel Consiglio di Facoltà. Noi abbiamo preso l'impegno di rifare un giro in un po' di studi di membri del Consiglio di Facoltà. Il giorno dopo ci siamo accorti che sostanzialmente buona parte di quei docenti non avevano capito neanche di che cosa si stava parlando. In particolare c'è stato un equivoco, ovvero molti avevano capito che noi volessimo un numero di esami superiore, mentre noi chiaramente diciamo chiaramente la nostra petizione che vogliamo semplicemente ricalendarizzare gli esami secondo il nostro ritmo di studi e il nostro piano di studi. Fatto sta che stiamo formalizzando una nuova proposta nel prossimo ordine del giorno del Consiglio di Facoltà, che si terrà probabilmente il 9 di novembre, sempre in DST, in DST3 alle 15.30, dove alla petizione accompagneremo un documento esplicativo delle nostre ragioni di cui chiediamo la diffusione anticipata, preventiva, a tutti i membri del Consiglio di Facoltà. Questo per noi è l'ultimo passo, l'ultimo veramente passo di tra virgolette distensione, perché non è sicuramente una distensione, ma comunque chiamiamola distensione nei confronti di un Consiglio di Facoltà che fino adesso, oltre ad aver fatto ben poco nei confronti della protesta studentesca in generale per quanto riguarda tagli e DDL, ha fatto anche ben poco per salvaguardare i diritti degli studenti iscritti alla facoltà. Questa degli esami del 509 è veramente una vergogna, in quanto oltre ad essere stati penalizzati, in quanto l'ordinamento 509 di fatto è stato un fallimento e noi ne abbiamo subito le conseguenze, oltre a vederci la didattica chiusa per tutti quelli che sono iscritti all'ordinamento 509, non abbiamo neanche la possibilità di fare gli esami con la nostra cadenza. Quello che chiediamo a tutti quanti gli studenti è che non devono lasciarci di nuovo soli. Tutti quelli che hanno firmato la petizione, che sono, ripeto, più di 500, non devono lasciarci di nuovo soli in Consiglio di Facoltà a combattere contro questa parte reazionaria che di fatto fa parte della nostra facoltà e di tutta l'Accademia. Sappiamo che probabilmente il nostro punto all'ordine del giorno sarà discusso, abbiamo buoni segnali per cui dovrebbe anche essere approvata una nostra proposta, ma quello che deve essere chiaro al Consiglio di Facoltà è che se non approvano il reintegro delle nostre sessioni d'esame, vedremo in quale forma, ci devono essere centinaia di studenti pronti fuori a invadere il Consiglio di Facoltà, ed eventualmente noi siamo dell'idea che dobbiamo anche essere pronti a invalidarlo. È assolutamente scandaloso quello che è successo nell'ultimo Consiglio di Facoltà, per cui rimandiamo chiaramente a prossimi post di chiarimento, tra cui smentiremo anche alcune fesserie che sono state dette per la facoltà. Rimandiamo al prossimo posto tutti gli studenti, e comunque l'appuntamento è, ripetiamo, molto probabilmente per il 9 novembre DS3 alle 15.30, dove dobbiamo essere centinaia. Adesso, prima di passare il microfono a Gustavo, mettiamo un pezzo che a me piace particolarmente, dei Tool, un gruppo progressive metal. L'album è Undertow del 1993, questa è Intolerance. Salve, sono Gustavo. Grazie. Sì, l'hai aperto, sì. È l'apprensione di Flavio, che siccome sono novello, no? No, stavamo valutando una interessantissima fotografia su Facebook che è linkata come trono per Silvio, ma diciamo che la discussione non è proprio questa, quella che dovremmo affrontare adesso, quindi... Anche se sì, me ne parliamo di Munnizza, quindi alla fine la situazione è quella. Sì, rifiuti. E dopo la questione universitaria, che ovviamente la nostra cara università pubblica sta diventando man mano un rifiuto, ci leghiamo al trattamento dei rifiuti tal quali, ecco. Il ciclo dei rifiuti in generale è qualcosa di interessante, anche studiarlo così, a pelle, no? Senso, dall'esterno, tu guardi per esempio il pacco delle fieste, no? È interessante. Cioè, dalla fabbrica esce una cosa gigantesca che è tipo ci saranno 100 pacchi di fieste dentro. Poi arrivano allo supermercato e da quel pacco escono 100 pacchetti più piccoli. Da quei 100 pacchetti escono altri 10 pacchetti più piccoli. Poi da quei 15 pacchetti li apri e c'è dentro un cartoncino. E quindi tu per una fiesta riempi il mondo di merda, no? E la cosa è interessante. È interessante perché ogni pacchetto è un lasciapassare per quelli che fanno tutti i pacchetti. Al guadagno e al profitto. Tutto il processo è studiato non solo per essere un guadagno a monte, quindi al momento della produzione, ma è studiato anche per essere un guadagno a valle. Infatti, a valle, cosa succede? Nelle nostre grandi valli, a valle appunto, succede che vengono depositati tutti questi pacchetti. E ultimamente la nostra terra è la terra di un po' più su e la terra di un po' più giù, Sicilia e Campania, sono terribilmente devastate, anche la Puglia in parte, sono terribilmente devastate appunto dallo sversamento di tonnellate e tonnellate di rifiuti. Abbiamo avuto in passato l'esempio dello sversamento dei rifiuti tossici anche in mare, ma cosa che se non si verifica nei nostri mari, si sta sicuramente verificando anche in questo momento, ne sono sicuro, nei mari somali o... nell'altra parte dei terzi mondi che piace tanto nominare ai nostri padroni, ecco. Cosa succede? Succede che nel momento in cui questo sistema di produzione ci riempie di spazzatura, lo stesso meccanismo per cui sono i più grandi appunto a guadagnare secondo questa dinamica, i più grandi guadagnano anche nel momento dello smaltimento, e quindi lo smaltimento dei rifiuti viene dato in mano alle grandi multinazionali, come per esempio la nostra grandiosa Veolia, che ormai abbiamo imparato a conoscere dall'acqua, ricordiamo i casi di Latina e anche comunque tutta la gestione delle reti idriche in Calabria, ma questo sarà un punto successivo all'ordine del giorno. La Veolia, oltre a gestire l'acqua, gestisce anche i rifiuti, e la cosa è molto legata, ci fate caso, la spazzatura e l'acqua è naturale proprio come collegamento. Uno che è bravo a far funzionare l'acqua è bravo anche a smaltire i rifiuti. Interessante come concetto. Comunque, al di là di questo possiamo dire che le stesse persone, queste grandi multinazionali che producono tutti questi rifiuti, pensate, l'altro giorno guardando una statistica vedevo un computer, la produzione di un computer, sapete che produce come scarti di lavorazione in generale, no? All'incirca, se non vado errato, spero di ricordare qualche zero di troppo, 150 tonnellate, 150 quintali di scarti. La cosa è terribile, se ci pensate. Comunque questo sistema, che alla fine ci riempie di spazzatura, fa guadagnare ulteriormente queste grandi multinazionali. E infatti la Veolia e tutte le altre corporation, fatte anche di lobby politiche, ovviamente, come non dimenticarle, ed è bene ricordarcele i nostri cari politici, si preoccupano molto di trovare siti di stoccaggio e parlano in queste occasioni di solidarietà. E la cosa è interessante. La cosa è interessante perché siamo noi a dover essere solidali con la Veolia, che deve appunto guadagnare quando... insieme ai suoi amici produce, e poi deve guadagnare quando smaltisce, ovviamente in discariche che non sono assolutamente a norma. Basta andare in una qualsiasi discarica del nostro territorio, una su tutte, quella

Silenzio. Silenzio in aula. Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare? No, Dora, signor giudice, sto giocando ai videogames. Dopo l'esauriente spiegazione di Gustavo, andiamo un attimino a capire che cosa sta succedendo in questo momento. Gli scontri, le guerriglie davanti alle discariche nel napoletano continuano. Oggi ci sono stati numerosi scontri, se non vado errato, a Taverna del Re, dopo che ci sono stati incontri a Telsigno, a Chiaiano. Vi è un movimento che si chiama Vesuvio in Lotta che si sta opponendo fortemente a quanto sta accadendo nel napoletano. In pratica la favola targata a Bertolaso Berlusconi è scoppiata in una bolla di sapone, rivelando la verità, ovvero rivelando che i rifiuti di Napoli non sono stati altro che ammassati e accantonati all'interno della riserva naturale del Vesuvio in vari posti, chiaramente mettendo in pericolo e avvelenando le persone di tutto l'Interland vesuviano. Se non che il nostro presidente emerito governatore Scopelliti ha ben pensato, col principio della solidarietà di cui parlava prima Gustavo, di accettare le tonnellate di rifiuti che il governo Berlusconi aveva nascosto, o meglio quelle che non è riuscita a nascondere nelle cave del Vesuvio. Così da giorni stanno arrivando centinaia di tonnellate di rifiuti del napoletano nelle nostre discariche. Ufficialmente, formalmente, la discarica panacea, la discarica in questione è quella di Pianopoli, a pochi chilometri da Lamezia, una discarica che era già discussa in fase di costruzione, in fase di progettazione. In rete c'è un dossier preparato da alcuni ragazzi di Lamezia proprio su questa discarica, molto interessante per chi volesse capirne di più. Che cosa sta succedendo? Ci sono dei comitati locali che si stanno muovendo, noi questo lo sappiamo in quanto come rete di difesa del territorio sabato a Crotone ne abbiamo parlato accuratamente. Ci sono dei comitati locali che si stanno muovendo e stanno cercando di smuovere sia le istituzioni che l'opinione pubblica su questa cosa. Al momento che cosa si è ottenuto? Il sindaco Gianni Speranza, il cui comportamento contraddittorio ci sorprende sempre, ha vietato il transito dei tir dal proprio territorio. Questo che cosa ha causato? Semplicemente che i tir hanno fatto il giro lungo. Ma la chicca ce l'abbiamo oggi, 2 novembre. Diciamo che oggi abbiamo acquisito, dopo gli autori di Ratzinga, la nostra sigla, un altro mito per noi che facciamo banda armata. Leggiamo un'ANSA che dice: è in vigore l'ordinanza del sindaco di Pianopoli, Gianluca Cuda, con cui si bloccano i tir carichi di rifiuti provenienti dalla Campania. Rombo di tuono, ci verrebbe da dire. Altre 4 righe precisano: il divieto è motivato dalle condizioni di intransitabilità a causa del maltempo. Scusate se ci viene da ridere. Delle strade che conducono alla discarica della Eco Inerti e del fatto che, virgolettato, emergono numerose contraddizioni, soprattutto riferite alla composizione dei quantitativi di rifiuti provenienti dalla Campania che possono essere conferiti nella discarica senza che ciò determini la saturazione precoce della stessa. Dunque, c'è da precisare che il sindaco Cuda, che è figlio dell'ex sindaco che è stato sindaco per 30 anni ed ormai sindaco da 11 anni se non vado errato, ha nel proprio programma elettorale con cui ha vinto la costruzione della discarica con cui ha promesso svariati posti di lavoro. Per cui partiamo da questo presupposto. Probabilmente messo con le spalle al muro rispetto a una situazione che sta diventando drammatica, il sindaco ha ben pensato di approfittare del maltempo per ritardare un po' l'arrivo dei camion. Questo è quello che sta succedendo a Pianopoli. In ogni caso, venerdì alle 17, proprio a Pianopoli, ci sarà un'assemblea popolare a cui noi parteciperemo come rete di difesa del territorio. Faccio un breve passaggio sulla rete del territorio. Che cosa è successo a Crotone? Innanzitutto è stata fatta un sit-in davanti alla Pertusola, ovvero quella fabbrica di proprietà ENI dalla cabina di regia mi dicono che forse non sono gli 11 anni, ma comunque si tratta di una sorta di 11 anni per quanto riguarda il sindaco Cuda, ma si tratta comunque di una gestione feudale in quanto l'attuale sindaco è il figlio dell'ex sindaco. Grazie della precisazione, come sempre precisissimo Peppone in cabina di regia. Dicevamo, è stato fatto un sit-in davanti alla Pertusola dove sono intervenute svariate realtà del territorio. La rete difesa del territorio raccoglie comitati, movimenti, associazioni di lotta in difesa del territorio dallo Stretto al Pollino. Eravamo in tanti, abbiamo fatto questo sit-in, dopodiché nella discussione del pomeriggio, nell'assemblea plenaria del pomeriggio che si è tenuta dopo lavoro ferroviario a Crotone, è stata approvata la piattaforma definitiva della rete di difesa territoriale. Che potete trovare già da ora sul sito www.difendiamolacalabria.org oppure sulla nostra linguetta apposita nel sito piduoccupata.noblogs.org. Presto pubblicheremo anche il video del sit-in dove sono stati fatti degli interventi da parte dei comitati, che non fanno altro che sintetizzare la drammatica situazione e sintetizzare in maniera particolarmente estrema, in quanto ci vorrebbero ore e ore, forse giornate di discorsi, di comizi, di presentazioni per rappresentare correttamente la situazione calabrese del meridione tutto. Una rete di difesa del territorio che rappresenta una realtà particolarmente importante per quello che sta accadendo. Le battaglie sull'energia, sui rifiuti, sull'acqua, sui beni comuni, sulle grandi infrastrutture rappresentano oggi per la Calabria un vero e proprio spartiacque per quanto riguarda il futuro, lo sviluppo di questa regione. Per cui partendo dal no al ponte, finendo dal no alla centrale del Mercure e da tanti altri sì, dal sì alla razionalizzazione del piano dei rifiuti, per esempio attraverso il piano redatto da Paul Connett, Rifiuti Zero, il sì a una razionalizzazione delle centrali energetiche che vada laddove c'è il consumo e non laddove ci sono semplicemente delle popolazioni inerti a cui quindi si può rifilare qualsiasi tipo di combustibile, fra l'altro aggravando la situazione con degli elettrodotti che tranciano le foreste e che implicano anche una dispersione. Insomma, questa della rete di difesa territoriale è veramente una realtà importante. Noi crediamo sia una realtà importante di questa regione e che seguiamo praticamente dall'inizio. Prima di lasciare all'altro spazio musicale, che fra l'altro sarà il consueto ormai, diciamo, spazio metal, vogliamo ricordare un po' di appuntamenti. Dunque, venerdì abbiamo detto alle 17 assemblea popolare a Pianopoli sulla questione dei rifiuti. Domani, o meglio, per chi segue da Radio Ciroma, ci sarà già stata, c'è una riunione ai Capannoni di Cosenza per l'organizzazione della manifestazione regionale in difesa dell'acqua pubblica del 4 dicembre che si terrà a Cosenza. C'è bisogno di fare alcune riunioni organizzative, per cui domani è la prima, tutti quanti coloro che hanno partecipato alla raccolta firme per l'acqua pubblica sono invitati a partecipare. Dopodiché sabato a Saline Ioniche per l'altra questione carbone della nostra regione, e poi altri appuntamenti ve li diremo dopo. Adesso andiamo con i Sepultura, questo è Roots, Bloody Roots. We'll be right back. Roots, Bloody Roots. Questi erano in Sepultura. Allora, effettivamente la cabina di regia aveva ragione. Il sindaco Gianluca Cuda, figlio d'arte, è entrato in vigore nel 2000. È entrato in vigore, sì. È stato eletto nel 2009, quindi erano scorretti gli anni. In ogni caso, si tratta di una gestione feudale del comune di Pianopoli. E resta il fatto che nel programma elettorale c'era la discarica come uno dei punti per l'occupazione. Torniamo a parlare per un attimo di università, perché stamattina La Repubblica segnalava una parte della manovra finanziaria in progetto da parte del ministro Tremonti, dove in buona sostanza, oltre i tagli della 133, arrivano ulteriori riduzioni. Per il 2011, si legge da Repubblica, la Gelmini prevede solo 26 milioni, oltre 180.000 studenti hanno diritto all'assegno, ma 8 su 10 non lo riceveranno. Questa è, giustamente, come ci tiene a precisare la Repubblica, l'università ai tempi della Gelmini, un taglio di finanziamenti ormai che va, per quanto riguarda il diritto allo studio, comunque i soldi, insomma, che arrivano a noi ormai va al 90%. Vedremo se l'università italiana riuscirà a sollevare la testa e non piegarsi più. Comunque non in difesa di quella che è l'università adesso, ma per un'università sicuramente diversa, partendo dalla difesa del diritto allo studio. No, perché volevo sottolineare una cosa. Cioè, questo taglio, a questo taglio, sì, dall'altra parte c'è la costituzione del fondo per il merito, il grandioso fondo per il merito, no? Cioè, è una cosa che hanno fatto passare così nel DDL Gelmini nuovo, il 905, ma sostanzialmente inserisce quel concetto americano che effettivamente il diritto allo studio non è più pagato dallo Stato, ma è pagato dallo studente. Semplicemente questa precisazione, penso che... Decisamente opportuna precisazione di Gustavo. In buona sostanza, quello che una volta era borsa di studio, ovvero lo Stato, a chi non poteva permetterselo pagava gli studi, diventa sostanzialmente un debito. Dal momento che quando usciamo dall'università, così come diciamo ormai da settimane in giro per le aule, per i posti, i datori di lavoro, le commesse, i soldi non ci saltano addosso, ma ci attendono altri anni di precariato, di occupazione, di lavoro nero. Sappiamo che molti studenti laureati di questa università e di altre università finiscono nei call center, tanto per fare un esempio. Arrivare a questo stato con un debito non è esattamente il concetto di nazione, di università, di lavoro, di prospettiva, di futuro che avevamo in mente, che avevano in mente per esempio i movimenti studenteschi degli anni 70, oppure, piccola parentesi che purtroppo dobbiamo chiudere, i partigiani che ci liberarono dal fascismo. Dunque, tornando a parlare un attimino, no, restiamo sull'università, perché fra l'altro avevamo pensato da un po' di giorni di dedicare una piccola parte di questa trasmissione ai ricercatori, e in particolare vogliamo dedicargli una canzone. Ma prima di dedicargli una canzone, vogliamo spiegare un po' tutto quello che sta succedendo per quanto riguarda i ricercatori. Dunque, come molti di voi sanno, molti anni accademici all'interno dell'università, e anche il nostro anno accademico, quello della nostra facoltà e quello di altre facoltà, non sono partiti in tempo, in quanto i ricercatori si sono detti indisponibili a sostenere didattica oltre i loro obblighi contrattuali. Che cosa significa? Beh, queste persone che dovrebbero fare all'interno dell'università, dei dipartimenti in particolare, ricerca, quindi tutto quello che implica la ricerca, ricerca sperimentale, ricerca scientifica, ricerca umanistica, in base alle proprie attitudini e peculiarità, in realtà fanno da anni e anni, a titolo prettamente gratuito, fanno didattica. Per molti di noi studenti non esiste la differenza tra ricercatore o professore. Gli studenti chiamano i ricercatori i professori, in quanto sono loro che tengono le lezioni, sono loro che tengono le esercitazioni, sono loro che fanno le spie agli esami, sono loro che correggono poi i compiti o eventualmente ci interrogano per quanto riguarda gli esami orali. Per cui i ricercatori sono in tutto e per tutto dei professori. In realtà, per quanto riguarda la propria retribuzione, i propri diritti all'interno dei dipartimenti e all'interno delle facoltà, non è così. Allora, dal momento che il DDL Gelmini e la legge 133 attraverso il blocco del turnover penalizza queste figure, i ricercatori, dopo anni di silenzio, sono tornati a svegliarsi, a ruggire come leoni, e quest'anno la loro radicalità li ha portati a dichiararsi indisponibili a fare tutto quello che non è previsto nel loro contratto. Molti questo l'hanno interpretato come uno sciopero, pensate al paradosso. In realtà non si tratta di uno sciopero, si tratta semplicemente di fare quello per cui sono pagati. Ma anche questo lo si fa piuttosto a singhiozzo. Molti dei ricercatori nella nostra università si sono ritirati, vanno a trattare con i presi di turno, che ovviamente hanno il coltello dalla parte del manico, in quanto quello che prima era un favore dei ricercatori alla facoltà, oggi è di fatto un dovere, perché c'è l'abitudine, la consuetudine, come voi sapete, soprattutto dalle nostre parti, poi diventa una sorta di obbligo. Beh, dal momento che abbiamo avuto modo di osservare l'azione incisiva dei ricercatori in svariati consigli di facoltà e anche in svariate loro assemblee, volevamo dedicargli una canzone di Peppe Voltarelli che si chiama Iam Avanti Ancora. Iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti. Iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti. Iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti. Iam arrete, iam arrete, iam arrete. Iam arrete, iam arrete. Iam arrete, iam arrete, iam arrete, iam arrete. Iam arrete, iam arrete, iam arrete. Iam arrete, iam arrete, iam arrete. Iam arrete, iam arrete, iam arrete, iam arrete, iam arrete. Stamma ferma, stamma ferma, stamma ferma, stamma ferma, stamma ferma, stamma ferma, stamma ferma, stamma ferma, stamma ferma, stamma ferma. Iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti. Iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti. Iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam avanti. Iam arrete, iam arrete, iam arrete, iam arrete, iam arrete, iam arrete, iam arrete, iam arrete, iam arrete, iam arrete, iam arrete, iam arrete, iam arrete, iam arrete, iam arrete, iam arrete, iam arrete. Stamma ferma, stamma ferma, stamma ferma, stamma ferma, stamma ferma, stamma ferma, stamma ferma, stamma ferma, stamma ferma, stamma ferma. Iam avanti, iam avanti, iam avanti, iam arrete, iam arrete, iam arrete, stiamo fermi, no, perché è interessante, negli scorsi consigli di facoltà si è visto un po' questo movimento strano del ricercatore e noi, non comprendendo bene le motivazioni politiche, ci siamo affidati all'arte sperando che Voltarelli illumini il loro cammino, il nostro grandissimo Peppone. Un augurio a Peppe, anche perché ha vinto il primo Tenco ultimamente, quindi... E il prossimo argomento in scaletta è un argomento che ci fa onore, devo dire. Il collettivo P2, lo sapranno gli ascoltatori accaniti di Banda Armata sul web, per gli ascoltatori di Radio Cirome è una novità. Comunque il collettivo P2 Occupata ha organizzato una serie di eventi di controinformazione con il titolo appunto Diario Appunti di Controinformazione. Noi il 4 dicembre avremo la prima giornata appunto in cui saranno presenti Ah, il 4 novembre, sì, effettivamente. Il grande Peppe Tigna ci corregge dalla regia come una saetta. Ecco, il 4 novembre, sì, praticamente dopodomani, se non vado errato, per gli ascoltatori online e oggi per gli ascoltatori di Radio C Roma. Ci sarà appunto la prima giornata, alle 17.30 si apre con la grandiosa apertura di Luca Abate con furore da Amantea. Comunque noi presenteremo appunto il libro di due giornalisti che hanno lavorato molto e molto bene negli ultimi anni. Sono la giovane Emanuela Iati e Pepe Baldessarro, che sono da appunto di Reggio, e loro hanno prodotto questo libro Inchiesta, che parla del traffico internazionale dei rifiuti. Nella giornata ci sarà appunto la presentazione del libro, di seguito ci sarà il dibattito con il microfono aperto, tutti gli studenti che invitiamo a partecipare, numerosi, potranno fare domande agli autori o comunque tessere una discussione che possa far luce appunto su quello che è un traffico che parte dalle navi dei veleni, ma che ovviamente non si ferma lì. Non si ferma nelle navi affondate a Cetraro, non si ferma nei rifiuti tossici sotto il fiume Oliva, ma arriva fino in Somalia e in generale, appunto, come citavo anche prima, nel nostro grandioso terzo mondo, che è diventato la nostra magnifica discarica, come dimostra anche lì il film che vedremo dopo, a fine serata, su Ilaria Alpi, che è un'altra giornalista che ha lavorato ed è appunto ed è morta per questo traffico, che vede coinvolti dei poteri e delle forze che sono assolutamente impensabili, o meglio, noi le pensiamo ogni giorno, però diciamo è molto interessante valutare e toccare con mano quelle che sono realmente le cause della nostra morte, perché di questo si parla di tumori, si parla di intere famiglie devastate da questo terribile male, che possiamo dire che è il male della nostra terra. Comunque ci sarà, la giornata sarà strutturata sostanzialmente in quattro fasi. Ci sarà la presentazione del libro, il dibattito, poi a seguire la cena sociale, e poi per i più resistenti ci sarà la proiezione del film Ilaria Alpi, Il più crudele dei giorni, appunto, che parla di un'altra nostra grandissima giornalista che per l'amore e la passione con cui ha svolto il suo lavoro è stata premiata e ringraziata con l'estremo castigo. Ecco, adesso vi lascio con Toxicity The System of a Down, che viene appunto dall'album Toxicity del 2001, un gruppo che dall'Armenia ci porta le sue sonorità in maniera abbastanza innovative, anche se purtroppo ultimamente non si sentono più. Comunque, Toxicity, il titolo c'entra qualcosa, il testo non lo so. Vai. Disorder, disorder. Now, somewhere between. flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. E a proposito di rifiuti, di Veolia e di grandi multinazionali, parliamo anche dell'acqua pubblica. Come non spendere due o tre parole per questa cosa che, se è vero che ai nostri regnanti importa ben poco, a noi sinceramente di avere l'acqua in casa ancora ci importa. La questione dell'acqua pubblica, ormai per il magnifico lavoro che è stato fatto in tutti i sensi, soprattutto nella provincia di Cosenza, che ha raccolto, non mi vengono su, 25.000 o 40.000, comunque dalle 25 alle 40.000 firme, che è un risultato strepitoso. Penso che ogni cosentino abbia più o meno firmato, perché in sostanza questi i numeri per avere l'acqua pubblica. Sicuramente tutti quanti conosciamo questa situazione. E io voglio comunque pubblicizzare quella che sarà l'assemblea di domani. Sarà per quelli che ci ascoltano stasera, è stata per quelli che ci ascoltano appunto giovedì su Radio Ciroma. Un saluto ancora a tutti gli ascoltatori on web e on the radio sia di Radio Ciroma e sia di Fuori Onda Radio. Appunto, l'assemblea sarà domani, mercoledì domani, alle 19.30 al Moci, ai capannoni appunto del rialzo. E questa qua sarà un'assemblea di preparazione per una manifestazione che dovrà tenersi a Cosenza, focalizzata appunto sulla questione della privatizzazione della gestione idrica, il 4. E questa sarà in contemporanea una manifestazione che coinvolgerà tutte le regioni d'Italia. Sono sicuro che la partecipazione a questa manifestazione da parte della popolazione cosentina e della popolazione italiana in genere sarà davvero nutrita, perché questo è assolutamente una questione che ci tocca da vicino. Dopo aver privatizzato ferrovie, dopo aver privatizzato elettricità, collegamenti e telecomunicazioni, stanno iniziando a intaccare quelli che sono appunto i beni comuni, che non dovrebbero essere assolutamente alienati da quelli che da quello che è il pubblico. C'è qualcuno che diceva, mi diceva guarda che non fanno una legge per privatizzare l'acqua, perché l'aria, perché ancora non hanno trovato il modo di imbottigliarla. E in sostanza il concetto è quello: l'acqua come l'aria. Qualcuno ha inserito il concetto il lavoro come l'acqua, ma questo è un altro discorso. Comunque alla manifestazione del 4 bisogna essere numerosi e in generale seguire tutti i passaggi che farà il referendum fino al suo svolgimento in maniera attiva e in maniera cosciente, perché le occasioni che abbiamo visto in Lazio, per esempio, che hanno visto la cosa pubblica in mano ai privati, appunto nella gestione dell'acqua, si sono dimostrate terribilmente fallaci. Basti pensare che nella provincia di Latina la situazione è diventata oscena, cioè si sono alzate a dismisura quelle che erano le tariffe, con un servizio che è regredito terribilmente. Quindi, con l'augurio di un referendum devastante che faccia capire a questi signori quello che è nostro e quello che può essere loro, vi lascio con l'equo canone del parto dell'album Alice Fare. Mamma, perché? Con i patti dei nuovi contratti, io disconosco tutti i fatti, avevo un sogno nella mente, equo canone disperatamente, equo canone, e fammi l'equo canone. Non è contento di questo appartamento, forse non ama il nostro movimento. Dicevi, è proprio una porcheria questo contratto foresteria. Intanto di notte sognavi, equo canone immaginavi. Fammi l'equo canone, e mamma che ti amine, e fammi l'equo canone, equo canone, e fammi l'equo canone, e mamma che ti amine, e fammi l'equo canone. Piano piano cervicale, e devi andare subito dall'avvocato per far far partire un raccomandato, puoi aspettare la risposta. Equo canone, la mia unica proposta. Equo canone, e fammi l'equo. Cambiamo completamente argomento dall'acqua pubblica a un episodio raccapricciante che è successo qualche giorno fa a Catanzaro. In occasione della presentazione di una rivista di controinformazione da parte di alcuni collettivi di attivisti di movimento, in particolare il collettivo Riscossa, vi è avvenuta a questa assemblea una vera e propria aggressione da parte delle forze reazionarie fasciste che purtroppo nella città di Catanzaro ci sono un numero piuttosto rilevante. Purtroppo è una sorta di cancro che non si riesce a estirpare, a guarire in nessun modo. Dopo l'aggressione è scaturita in due pugnalate alla schiena ad uno dei ragazzi del collettivo. E purtroppo questo ragazzo in questo momento è all'ospedale con 30 giorni di prognosi, per cui si tratta di una situazione grave, si tratta semplicemente della punta dell'iceberg di quella che è a Catanzaro una vera e propria situazione del terrore. Non si può fare informazione e controinformazione correttamente dal basso senza essere aggrediti sistematicamente da parte di gruppi di smidollati di estrema destra che fanno capo comunque a alcuni gruppi da un punto di vista nazionale, alcuni gruppi di tutti quegli imprenditori, di quella grande imprenditoria fascista che comunque è molto diffusa in Italia. Si pensi ai Tilger, ai Fiore, allo stesso delle Chiaie, uno che ha comunque svariati contatti a Catanzaro. Per cui la città sta cercando di reagire. Ci hanno fatto sapere da Catanzaro che probabilmente già il 13 novembre ci sarà una manifestazione a cui sono invitati tutti gli attivisti di movimento, una manifestazione chiaramente antifascista a cui sono invitati tutti gli attivisti di movimento del Meridione, in particolare noi come calabresi non potremmo mancare, anche non fosse altro in solidarietà a questo ragazzo che per fare della semplice controinformazione si è beccato non un insulto, non la solita classica vigliacca manganellata di gruppo da parte dei fascisti che a Catanzaro va piuttosto di moda, ma si è beccato ben due pugnalate, e speriamo che comunque possa tornare presto a continuare a fare quello che stava facendo quando è stato pugnalato, ovvero controinformazione, ovvero pensare, cercare di costruire un mondo migliore partendo anche dalla propria città. Non potevamo che scegliere un pezzo a tema, prima poi di fare un riepilogo e di avviarci alla chiusura, un pezzo a tema che per qualcuno potrà risultare banale, ma che a me personalmente piace tantissimo. È Oltre il Ponte, interpretato dai Modena City Ramblers in Appunti Partigiani del 2006. Si tratta di un testo scritto da Italo Calvino, poi musicato da Sergio Liberovici grazie alla voce di Piero Buttarelli, che Modena City nel 2006, con tutti insomma sinceramente i limiti che si possono riconoscere, si è proprio detto francamente al gruppo, comunque che i Modena hanno reinterpretato nel 2006 rendendo il pezzo chiaramente molto più attuale e francamente anche molto bello. Fra l'altro c'è anche il contributo all'interno di questo pezzo che possiamo sentire all'inizio di Monio Vadia. Questo è Oltre il Ponte, Modena City Ramblers, Appunti Partigiani. Ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora,

interrogatorio fino alle 8 del mattino, dalle 2 di notte fino alle 8 del mattino in questura, perché ritrovati in possesso di un'arma bianca. In buona sostanza, all'interno della sala dove stava facendo la presentazione hanno trovato una falce, per cui si sono sentiti, le forze dell'ordine si sono sentiti in dovere, piuttosto di andare a beccare chi aveva tirato due pugnalate a sto povero ragazzo, si sono sentiti in dovere di tenere gli organizzatori dell'iniziativa fino alle 8 in questura a torchiarli. Immaginate un po' se entrano in uno qualsiasi dei nostri garage, che cosa potrebbero farci, dal momento che non esiste un nostro garage scantinato a soffitta, senza falci, senza accette, zappe, picconi e compagnia bella. Questa è l'ipocrisia e probabilmente anche il fiancheggiamento da parte di molti organi dello Stato nei confronti di questi gruppi di estrema destra, che purtroppo non possiamo fare altro che denunciare e definire come squallidi e decisamente vergognosi. Detto questo, siamo al riepilogo dei saluti finali. Dunque, abbiamo detto di quella che in questo momento può essere letta come una vittoria del movimento No Carbone, in quanto il Ministero dell'Ambiente non ha dato parere positivo nella valutazione di impatto ambientale della centrale a carbone, per cui la centrale a carbone a Rossano in questo momento non si fa, l'Enel dovrà presentare un altro progetto di riconversione. Ci sono già espressioni in campo per cui questo progetto di riconversione non può che essere soltanto ecocompatibile, non altri mega impianti. Abbiamo parlato di coordinamento studentesco domani, quindi per chi ci segue da Radio Cidoma, insomma, ci sarà già stato, ci sarà il primo coordinamento degli studenti di ingegneria qui in aula più alle 5:30, dove si discuterà di un documento forte e poi delle iniziative da organizzare questo fine settimana e la prossima settimana in città, in particolare lezione all'aperto, comizi, iniziative, volantinaggi per sensibilizzare la città, sensibilizzarci anche tra di noi studenti, perché non tutti hanno capito la gravità di quello che sta succedendo. Tra l'altro abbiamo anche riportato un articolo di Repubblica dove si riporta un pezzo della finanziaria che taglia il 90% le borse di studio, 8 studenti su 10 si calcola non potranno ricevere il proprio assegno. Questo da collegare all'inserimento da parte del Ministero nel DDL 1905 che verrà discusso forse prima dell'inizio dell'anno, dei prestiti d'onore. In buona sostanza è abolito il diritto allo studio, abolito le borse di studio, si inseriscono dei debiti. Inoltre c'è l'annosa faccenda delle sessioni dell'ordinamento 509 nella nostra facoltà, questa annosa faccenda che ha visto una puntata squallida, triste veramente, nel consiglio di facoltà di giovedì scorso. Lo abbiamo scritto, lo scriveremo ancora, rifatevi i nostri prossimi post dove diremo insomma le prossime mosse. Quello che abbiamo potuto anticipare è che richiederemo è che innanzitutto i professori hanno dato un pessimo spettacolo, i professori, i ricercatori, gli associati, i rappresentanti degli studenti hanno dato un pessimo spettacolo nel corso dell'ultimo CDF e non sono riusciti ad approvare una mozione che loro stessi avevano confusamente abbozzato, a differenza della nostra petizione supportata da 500 firme, che è chiarissima e che non chiede più appelli. Noi non siamo per una facoltà esamificio, ma chiede semplicemente una ricalendarizzazione opportuna. Questo lo spiegheremo attraverso un documento che pubblicheremo a breve su internet e chiederemo l'inserimento al prossimo consiglio di facoltà, che si terrà il 9 alle 15:30 in DS3, dove dobbiamo esserci veramente tutti, ci devono essere tanti studenti, perché questa cosa qui deve essere in un modo o nell'altro accolta, in quanto è un nostro diritto. Siamo pronti a invadere il consiglio di facoltà nel momento in cui questa cosa non sarà approvata. Per farlo abbiamo bisogno del supporto di tutti quegli studenti che sono venuti in questa settimana a chiederci delle assemblee, a darci una mano, a raccogliere firme, a mettere semplicemente la propria firma, a chiederci su internet, a telefonarci e tutto il resto. Per cui tenetevi sintonizzati sul sito e in ogni caso ci vediamo il 9 alle 15:30 in aula DS3. 15:30 in aula DS3. Ancora, abbiamo parlato di Rete di Difesa del Territorio, che sabato si è riunita a Crotone dopo un sit-in partecipato davanti alla alla terribile, insomma, pertusola sud di Crotone, dove si sono espresse molte realtà di tutta la regione, ma anche molte realtà della città di Crotone. Avevamo l'esigenza di andare a Crotone proprio per la situazione paradossale che si vive tra discariche, fra una zona industriale avvelenata e abbandonata, quindi tra disoccupazione, povertà, avvelenamenti, sfruttamenti, ricatti. E dopodiché il pomeriggio si è tenuta un'assemblea plenaria dove è stata approvata finalmente la piattaforma della rete di difesa territoriale, che ormai quindi è una realtà consolidata del nostro territorio, che racchiude realtà che vanno dallo stretto fino al Pollino, che si occupa di energie, si occupa di rifiuti, ma anche di beni comuni, di recupero di quel tessuto sociale che fa parte del territorio, della cultura della nostra regione. Chiaramente tutto questo con un principio semplice, che è quello della cooperazione, quello della solidarietà, ma anche della lotta e dell'impegno e dell'organizzazione dal basso. Abbiamo parlato anche di acqua pubblica. Il 4 dicembre a Cosenza si terrà una manifestazione regionale in difesa dell'acqua pubblica, che preparerà poi al prossimo referendum che questo governo vorrebbe sminuire, in quanto si vorrebbe attuare il decreto Ronchi prima del referendum. I soliti trucchi di questo squallido governo, che tra scandali, gossip, appartamenti a Monte Carlo, nel frattempo sotto lavora per la distruzione dello stato sociale di questo paese. Per cui il 4 dicembre saremo tutti a Cosenza a manifestare per l'acqua pubblica. Abbiamo parlato di quello che è avvenuto a Catanzaro, per cui manifestiamo non solo la nostra solidarietà, ma che formale e sostanziale a chi ha subito questo tipo di aggressione, al ragazzo che è stato pugnalato, ma anche segnaliamo, possiamo dire fin da ora, la nostra presenza il 13 novembre a Catanzaro, come studenti, come cittadini, come antifascisti. E ricordiamo che giovedì alle 17:30 in Aula P2 ci sarà la presentazione del libro Avvelenati di Manuela Tieti e Peppe Valdessaro. Ne approfittiamo per ringraziare ancora una volta Peppe Valdessaro, che è collaboratore della Repubblica, redattore del Quotidiano, in quanto oltre a garantire la sua presenza qui, e sappiamo che non viene pagato per venire qui Peppe Valdessaro, anzi deve prendere dei giorni di ferie, oltre a garantire la propria presenza qui, ci ha dato anche una mano per organizzare, ci ha dato qualche consiglio, ci ha dato qualche dritta. Dalla cabina di regia il messaggio è sempre lo stesso, ve lo taglia. Per cui ringraziamo Peppe. Alle 17:30 giovedì in Aula P2 ci sarà quindi Diario, ovvero il primo appuntamento di questa rassegna, la presentazione del libro Avvelenati, che parla del traffico internazionale di rifiuti. A seguito una cena sociale, un piccolo momento di aggregazione, dopodiché vediamo un film che parla di Ilaria Alpi e Miron Rovatin, che sono stati assassinati in Somalia proprio per aver indagato, per aver scoperto delle scomode verità sul traffico di rifiuti internazionali e sul traffico d'armi tra l'Italia e la Somalia. Con questo vi salutiamo, lanciamo un pezzo di chiusura che è un po' sui generis, una piccola parentesi folk, ma di un gruppo che ci piace in maniera particolare. Questa è Banda Armata, stiamo trasmettendo, lo ricordiamo, dall'aula P2 occupata, fuori Onda Radio e Radio Ciroma sull'etere 105.7. Il pezzo di chiusura è dei Mattanza, un pezzo che si rifà alla tradizione popolare, ripresa fra l'altro da molti cantautori italiani. L'album è Nesciasuli, il pezzo è Un Servo e un Cristo. Tempo fa di questa piazza, cussi priava a Cristo e ci dicia: Signore, o me patroni, mi sciapazza, mi tratta come un cani, la via, tutto mi piglia culla, so manazza, la vita dice chi manco è la mia. Si è un milagno giù, per io minazza, chi ferri mi castia, prigionia. Un Dio mo ti prego, chi sta mala razza, distruggi milla tu Cristo, per mia, distruggi milla tu Cristo, per mia, distruggi milla tu Cristo, per mia. E Cristo non ci rispose dalla croce. E tu farsi chi hai giunti di razza, oppure l'angio va di gomma mia, tu vuoi la giustizia, si la fazza, non sperdatro la fazza, mattia, se tu si amo e non si testa pazza, metta profitto sta sentenza mia, io saria sopra sta cruciazza, sai si fatto quanto di quattia. Ma la Cresia sta risposta non ci piaciu, e così la cangiavo. E tu che ti scordasti, o testa pazza, chi tu che hai scritto un tale, la legge mia, sempre in guerra sarà, l'umana razza, se fu l'offesi, l'offesi, Castia, a culo offendi lo passa e la frazza, e in paradiso si dirai con mia, minchio varole prenda sta cruciazza, e cielo e terra di spari putia. Ma noi ti piace ma cantiamo così, e tu farsi chi hai giunti di prazza, oppure l'anchio va di gomma mia, pumoni la giustizia, sì la pazza, non speri dietro la pazza, mattia, se tu siamo e non si testa pazza, metta a profitto sta sentenza mia, io non saria sopra sta cruciata.